Linee d'ombra di Matteo Caccia. Guarda, mi vengono le pelle d'oca anche adesso, dirti la verità, gli ho detto, cazzo, a me succede questa roba qua. Poi, vabbè, poi le affronti, ecco. Nel frattempo sentivo dei dolori nuovi che non sapevo come interpretare. Il mio respiro aveva cominciato a rallentare per non disturbare la mia attenzione al corpo. Sentivo che qualcosa non andava. Storie di un allarme giustificato e delle risorse che servono per aiutare la nostra parte migliore in una puntata che si intitola La forza che abbiamo dentro. Non sederti, non sei stanco, stai bene. Vattene con quello sgabello, non gli serve. Ti sta guardando? Fai cenno con la testa per dire che non ti serve. Fai cenno con la testa per dire che non lo vuoi. Sì. Perché non si siede? Guarda me. E adesso si chiederà, se Braddock è davvero un vecchietto, perché resta in piedi? Perché continua a farsi sotto? Tu sei più forte di lui. Tieni duro a centro ring, non mollare, quello è un rullo compressore. Ti attaccherà tutta la sera finché non lo fermerai. Non molla, lo devi fermare tu. Devi battere quel figlio di puttana con la forza che hai dentro! Mi hai sentito? Devi andare là e colpire e continuare a colpire fino a che non gli rompi il naso e gli riempi la faccia di sangue. Battilo con la forza che hai dentro, Jim! Con la forza che hai dentro! È Russell Crowe, il protagonista di questo film che si intitola Cinderella Man. Non è lui che parla in questo caso, è il suo allenatore. Siamo su un ring, Cinderella Man, cioè Russell Crowe è distrutto, è a pezzi e il suo allenatore fa quello che moltissimi oggi vengono chiamati coach fanno. È una forma di incoraggiamento che alcuni chiamano training o training autogeno, insomma non me ne intendo particolarmente e quindi non entro nel merito. Ma è l'idea che se ti racconti delle cose, se ti racconti quanto sei forte, quanto sei bravo, quanto puoi farcela, finisci per crederci e finisci per caricarti di quella forza che appunto hai dentro. Vi abbiamo raccontato questa storia perché la puntata di oggi si intitola La forza che abbiamo dentro ed è una puntata tutta dedicata a questo tipo di storie, cioè a storie che funzionano e che vanno avanti, che arrivano alla fine della storia, proprio perché qualcuno scava dentro di sé e trova delle forze che non aveva. Devo dire che il periodo da cui stiamo lentamente uscendo un pochettino ce l'ha insegnato, cioè ci ha detto che abbiamo, da un punto di vista sociale e non solo da un punto di vista personale, abbiamo delle risorse, abbiamo delle forze inaspettate. Penso davvero a tutto il personale sanitario che in questo periodo, al di là della retorica degli eroi, ha fatto una cosa e l'ha fatta molto bene: ha fatto il proprio lavoro mettendoci tutto quello che dove poteva metterci, non solo da un punto di vista professionale ma anche umano. Sono tantissimi i racconti di persone che sono uscite dagli ospedali dopo una malattia terribile che è stata il Covid, che sono usciti dalla terapia intensiva raccontando quanto non solo i medici, il personale sanitario fosse preparato, ma quanto fosse umanamente vicino a queste persone che, ricordiamolo, hanno avuto una malattia di cui non si conosceva niente e spesso, come abbiamo raccontato in una delle nostre storie seriali, la storia di Irene e di suo marito, si trovano di fronte a persone senza un'identità, perché quelle maschere, perché quelle tute le coprivano completamente. Quindi in qualche modo racconta anche di quella linea d'ombra che abbiamo varcato, insomma che speriamo di avere varcato quasi definitivamente, che è stata questa pandemia che ci ha fatto iniziare il 2020 in una maniera quantomeno particolare. Ecco, raccontiamo storie qui a Linee d'Ombra, vi raccontiamo storie che hanno a che fare con dei confini. Le storie di oggi ci raccontano di quello, ci raccontano della capacità endogena, cioè interna a noi stessi, di andare oltre le difficoltà, di, come si dice, buttare il cuore o il cuore oltre l'ostacolo. E partiamo con una storia di un'emergenza personale che Pietro, il protagonista e autore di questa storia, percepisce una mattina quando si alza e, come dice lui più di una volta, capisce che c'è qualcosa che non va. State con noi. Una mattina il sole entra dalla finestra e illumina la camera da letto con raggi ben definiti, filtrati dalle tende bianche. Al mio fianco, sul letto, non c'è nessuno. Sento dalla cucina al piano di sotto delle voci, le identifico, mia figlia e mia moglie. Penso in che giorno siamo. Mi tranquillizzo perché so che è una giornata festiva e non c'è nessun programma, solo relax. Decido di alzarmi e fare una doccia. Mi avvio verso il bagno, ma in quei pochi passi verso il bagno sento che qualcosa non va. Provo stanchezza, dalla testa ai piedi. Entrato in bagno, la prima cosa che faccio è mi guardo al grande specchio e a voce alta dico: Pietro, non è tra le migliori giornate. Premetto che era un bel po' di tempo che non riposavo. Da un paio di settimane avevo completato un grosso cantiere molto impegnativo. Quel progetto mi aveva impegnato fisicamente e mentalmente 7 giorni su 7, dal mattino alla sera. Avevo ancora i disegni, le persone, i particolari, le telefonate continue che mi passavano per la mente. Quella mattina mi feci una doccia, pensavo che mi sarei dato un po' di carica per iniziare la giornata. Dopo essermi vestito, mi avviai verso il piano di sotto, dove sentivo parlare mia figlia e mia moglie. Arrivato in cucina, salutai con un freddo buongiorno. Il mio sguardo non fu peraltro che per una sedia più appartata possibile, nella grande cucina, dove nel centro della stanza domina un tavolo da 8 posti. Scelgo la sedia più vicina alla grande vetrata che guarda il portico e il giardino. La giornata è proprio bella, un sole primaverile che ti invoglia ad uscire all'aperto. Mi guardo attorno, mia figlia alla mia destra. Non ricordo cosa stesse facendo. Mia moglie traffica con pentole al lavello della cucina. Dopo qualche minuto di silenzio, faccio un pensiero ad alta voce. Questa mattina non sto bene. Mia moglie mi chiede che cosa mi senta e la mia risposta è semplicemente non va. Poi mi guardo intorno. Nel frattempo sento dei dolori nuovi che non so come interpretare. Il mio respiro ha cominciato a rallentare per non disturbare la mia attenzione al corpo. Nello stesso tempo mi sta crescendo l'agitazione, la tensione, sento che qualcosa non va. La mia testa comincia a pensare ad una soluzione di emergenza. Devo fare qualcosa, forse devo andare in salotto a distendermi, magari mi rilasso. No, penso, niente salotto, piuttosto le chiavi della macchina. Mi sentivo che io mi sono alzato quella mattina e sentivo, hai male dappertutto. Non c'è un punto del tuo corpo che non ti dà dolore o ti dà fastidio. Cioè è un male totale, in tutto e dappertutto, un po' di testa un po' indolenzita, c'è tutto che non funziona insomma. Quella volta lì proprio sentivo, proprio c'è qualcosa, ho detto qua che non funziona, mi sta succedendo qualcosa. Mi alzo dalla sedia, mi avvio verso l'ingresso di casa dove si trovano le chiavi della macchina, prendo le mie, sono fermo, guardo la porta del garage e penso che sia la soluzione più giusta, sì, vado al pronto soccorso. Salgo sulla mia auto, resto un attimo a guardare davanti per ascoltare come mi sento. Sto peggiorando, o forse sto un po' meglio. Non so dare una distinzione tra prima e ora, ma sento che il mio corpo mi sta dando dei segnali particolari. Sento un ronzio alla testa, dolori muscolari, qualcosa non va. Accendo il motore, apro il basculante elettrico del garage che mi sembra lentissimo e poi via verso l'esterno. Parcheggio la macchina all'ingresso del pronto soccorso, negli spazi destinati ai medici e ambulanze in sosta. Ho pensato, entro, mi faccio vedere e poi riesco a spostarla. Scendo dalla macchina, sento le gambe stanche, sento un dolore generale che mi sta avvolgendo e che peggiora. Mi avvio verso l'accettazione, mi guardo attorno, non ci sono pazienti che aspettano, ma non c'è nessuno neanche all'ufficio accettazione. Sulla parete di fronte a me, in quel piccolo ufficio scuro, vedo un orologio digitale, i numeri lampeggiano, dicono 8:36. Vedo la mia figura che si specchia al vetro divisorio dall'ufficio. Ci sono. Ma sono preoccupato. Dopo qualche minuto, che a me sembra un'eternità, sempre lì ad ascoltare il mio corpo, vedo una sagoma entrare in quell'ufficio buio. Un attimo dopo, una signora di mezza età, un po' robusta, coi capelli mossi e color ruggine, mi guarda e mi fissa. Io resto ammutolito, qualche secondo in silenzio, ho paura di parlare. Lei mi fissa e mi dice: Prego, buongiorno. Non so cosa dire, come spiegarmi, non mi esce nemmeno una parola dalla bocca. Immagino che la mia faccia trasmetta qualcosa che la signora per fortuna vede. Subito dopo mi ritrovo su una sedia a rotelle, con un affare fissato al dito medio della mano destra. Lei sta lì vicino a me, mi fa delle domande, i miei occhi puntano un badge al taschino sinistro, leggo il suo nome, Silvana. Poco dopo si allontana verso una porta scorrevole di grandi dimensioni, sento che parla, poi il suo ritorno e subito le sue attenzioni. Mi chiede come mi sento, se provo dei dolori. Ricordo che ci ho pensato un attimo e ho risposto sì, in tutto il corpo. Mi prende il polso per qualche istante, mi si avvicina con la sua faccia alla mia, mi guarda l'occhio sinistro, poi guarda la grande porta scorrevole. Mi sento stanco, agitato, guardo qualsiasi cosa faccia lei, capisco che qualcosa non va. troppe domande, troppa attenzione nei miei riguardi. Mi metto una mano sulla spalla, la guardo, lei mi guarda e mi fa un accenno di sorriso. Si gira e si riavvia verso la porta scorrevole che dista 4-5 metri da me. Apre la porta quel tanto e per infilarci la testa a mezzo busto. Sento che a voce un po' alterata e con tono più alto, a differenza di come comunicava con me, dice: «Dottore, abbiamo un paziente in fase... è un'urgenza». There's nothing to do here, some just whine and complain in bed at the hospital. Coming and going, asleep and awake in bed at the hospital. Tell me. All'interno della stanza con la porta scorrevole sento una voce maschile che risponde: «Va bene, lo porti dentro». Silvana, l'infermiera, si avvia a passo veloce verso di me e in un attimo trascina la sedia a rotelle verso quella stanza, passando dalla famosa porta scorrevole. Entrando con la mia sedia a rotelle vedo una scrivania sulla destra con una persona in camice bianco. L'infermiera mi posiziona a lato di un lettino. Il signore con il camice si avvicina a me dando degli incarichi all'infermiera. In un batter d'occhio mi ritrovo con il medico e l'infermiera su di me con il misuratore della pressione. Il medico con lo stetofono endoscopio e dopo qualche minuto il signore con il camice bianco fa la sua sentenza chiamando l'infermiera per nome. «Silvana, chiama al reparto cardiologia e digli che stiamo arrivando con un infarto in corso». L'infermiera afferra le maniglie posteriori della sedia a rotelle e ci avviamo verso il reparto che si trova al quinto piano. All'uscita dell'ascensore due infermieri mi prendono in carico. A quel punto comincia la corsa. Elettrocardiogramma prima, due punture di eparina sulla pancia poi e subito mi trovo in un letto con segnali sonori, luminosi, tubi, flebo, prelievi di sangue e tre angeli in camice bianco si affaccendano attorno al mio letto. Sono in terapia intensiva. Saranno passati 50 minuti. La fortuna sta che a quel tempo avevo l'ospedale che era, saranno 2 chilometri da casa. Poi domenica non c'è nessuno. Non mi rendo conto di dove sia e ho le lacrime agli occhi. Un infermiere con gli occhiali e un accenno di barba mi guarda, fa un accenno di sorriso, si avvicina e parlando a voce bassa mi dice: «Tranquillo, sei fortunato, andrà tutto bene». Rispondo con un filo di voce: «Grazie». Passo 11 giorni di ospedale, di cui 5 in terapia intensiva. Faccio un'angioplastica coronarica e poi una ripresa a casa con passeggiate e riposo. Ora sono passati 18 anni da quel giorno. Sto bene, ma continuo ad ascoltare quello che mi dice lui, il mio corpo. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know, the gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline, engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight, hold you close till the morning light. The morning watch sun. Stay alive. Do whatever. Questo programma si intitola Linee d'ombra perché appunto racconta delle situazioni di confine a tutti gli effetti, e la storia di Pietro credo che, insomma, tra tutte quelle che ci sono arrivate quest'anno davvero racconta di un confine piuttosto netto, non solo tra lo stare bene e lo stare male, ma tra lo stare e il non starci più. Pronto, ciao Pietro, buongiorno. Ciao Matteo. La prima domanda d'obbligo è: come stai oggi? No, sto bene, dai. Tutti i giorni mi controllo e sto bene comunque, ma ormai sono passati 18 anni da quel giorno. Cosa intendi che tutti i giorni ti controlli? No, la mattina la prima cosa che fai ascolti il tuo collega, il tuo corpo, cioè il cervello va a collegarsi con il tuo corpo e dici ok, perfetto, oggi andiamo bene, partiamo bene, andiamo avanti. Ah, ok. Senti, ma possiamo dire che sei stato fortunato quel giorno, nel senso che se non avessi agito così rapidamente sarebbe potuto essere peggio? Sì. Ma sai, è proprio quello che aveva detto anche il dottore quella volta. La fortuna e poi c'è anche la sfiga, insomma, ecco. Quindi sono le due cose che vanno a decento. Nella vita. C'è stata la fortuna, diciamo. Senti, ma per quale motivo non hai deciso di fare tutto da solo? Cioè di pigliare, salire in macchina, andare al pronto soccorso? Non hai pensato di chiedere a tua moglie, dammi una mano? Cioè sei andato in automatico così? No, sì, è stato proprio tutto quanto automatico. Cioè, non lo so, non me lo sono mai chiesto, per dire la verità, sta cosa. Mi sembrava di disturbare anche tante volte. Ah, okay. Poi, sai, io sono uno che alla mattina mi alzo, oggi mal di qua, oggi mal di là, cioè ormai è diventato come, sai, quando si grida al lupo. Ah, ok, ok, quindi un po' è Pierino il lupo, ok, chiarissimo. Sì. Senti, poi come le hai avvisate però a casa i figli e la moglie? Hai chiamato tu o hai chiamato l'ospedale? No, adesso non ricordo benissimo sta cosa, deve essere stato o l'ospedale oppure mia moglie ha detto ma dove è andato il papà? E mia figlia gli ha detto ho visto andare via in macchina, ecco, lei forse l'ha immaginato perché ormai per me l'ha immaginato, insomma. Ah, okay. Non ricordo sto particolare, adesso dovrei chiedere, ma se non, forse non si ricorda neanche lei. Senti, da allora è andato tutto a posto, cioè sei sempre stato bene? Sì, sempre stato bene, mi tengo controllato e va tutto bene, chiaramente ho cambiato alimentazione, ho cambiato un po' il ritmo di vita, insomma. Senti, nel racconto parli di cantiere, che lavoro fai? Faccio il designer, faccio il project designer, seguo strutture molto grosse nella costruzione. Senti, com'è nato sto periodo di emergenza sanitaria? Sei riuscito a lavorare? Hai bloccato tutto? No, io ho sempre lavorato, perché lavoravo in studio, progettazione, eccetera. Non andavo fuori in cantieri, ma seguivo tutto dallo studio, insomma, per quello che si poteva fare. Comunque è stata dura un po' per tutti, vabbè. Tu, dall'accento direi che sei veneto, giusto? Veneto, sì, veneto. Di dove? Di Vicenza, sono un paesino ai piedi dell'altipiano di Asiago. Ah, ok. E lì com'è stata la situazione? Non c'è stato tantissimo, sbaglio? No, qui è stato abbastanza tranquillo. Pietro, senti, ti ringrazio molto per la storia. Soprattutto, guarda, dopo che hai parlato di questo check-up che fai tutte le mattine appena ti svegli, adesso mi sa che ci proverò anch'io. Pietro, grazie davvero per la storia e la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. A presto. Ciao. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. But she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to you. Diamonds on time she had diamonds on inside. Grazie mille a Pietro che ci ha raccontato questa storia, grazie soprattutto per averci raccontato della forza che abbiamo dentro, che è il titolo che abbiamo dato a questa puntata. Io continuo a pensare che probabilmente se avesse chiesto aiuto sarebbe stato forse più facile, però è anche vero che da una parte c'è probabilmente una modalità di autoaiuto o di, come dire, di autosalvezza che si attiva in certe situazioni, e lui ha dato totalmente fondo a quella modalità. Grazie a lui, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e tra pochissimo torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra la forza che abbiamo dentro. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Sono Tommaso, sono un detenuto dell'alta sicurezza del carcere di Padova. Sono da 27 anni in carcere e da 5 faccio un percorso di reinserimento e in particolare parlo con gli studenti. Una delle domande degli studenti che ricorre sempre dopo il mio intervento è: per quale motivo io, che sono un ergastolano ostativo, faccia questo percorso pur sapendo che tanto dal carcere non uscirò mai? La puntata di oggi si intitola La forza che abbiamo dentro e, pensando a questo titolo, abbiamo scelto come seconda storia per oggi la risposta che Tommaso Romeo, un ergastolano ostativo, per ergastolo ostativo si intende un ergastolo che non prevede alcuna forma di alleggerimento negli anni, insomma lui sta detenuto al carcere di Padova ed è redattore della rivista Ristretti Orizzonti, ecco la risposta che ci ha dato a questa domanda. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Io spiego a chiunque me lo chieda che anche l'ergastolano che fa un percorso fa un investimento sul futuro, un investimento che la società civile mette nella prevenzione e nella sicurezza, perché il nostro percorso di reinserimento è seguito anche dalle nostre famiglie. Abbiamo coinvolto anche loro, in particolare i figli. I figli ci hanno molto aiutato in questo percorso di reinserimento, non è facile. Ci sono un sacco di delusione, molte ricadute, perché non è semplice eliminare quella subcultura o quella cultura negativa di cui ci siamo nutriti per tutta la vita passata. E se non hai qualcuno che ti aiuta e che ti invoglia, da solo non ce la fai. Perciò le figlie, e in particolar modo mia figlia Francesca, sono state un motore di spinta. Il nostro cambiamento, anche se io non uscirò dal carcere, mai, influisce sui familiari, su quei giovani che fuori ancora ci vedono come delle persone da imitare. I giovani, i ragazzini dei nostri quartieri che vivono in un territorio difficile, ancora pensano che siamo persone da imitare in negativo. Perciò noi lottiamo perché proprio in quegli ambienti dove siamo cresciuti si sappia del nostro cambiamento. Là devono sapere che le mie scelte sono state devianti, sono state sbagliate. Il mio percorso e la mia vita è seguita dai nostri familiari e da quei ragazzini che vivono nel quartiere dove sono nato, nella città dove sono nato. E sono molto soddisfatto se qualche ragazzino riesce a cambiare mentalità, se riesce ad allontanarsi da quella subcultura. Quando io ho telefonato a casa, mi sembra qualche mese fa, un mio cognato mi ha detto: «Sai, sto facendo un progetto con il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, aiuto i ragazzini difficili a inserirsi nella società facendoli confrontare con quei ragazzi che hanno un pensiero diverso da loro, sei contento?» «Certo che sono contento», gli dico. E poi mi ha detto: «Ho fatto questa cosa, mi sono invogliato a fare questa cosa perché so quello che fai tu a Padova e ho voluto farlo pure io qua. Ed è per questi risultati qua che anche chi, come me, è un ergastolano, non si deve arrendere». Dust devil swept you away. It's still not real. Ash and earth and silence. Talk to me. Dust devil swept you away. My recollections are all that's left of you. Dico che il confronto è la base per il cambiamento, è la base per migliorarsi, il confronto. Io per 20 anni sono stato in sezione senza mai vedere nessuno. Sono stato 8 anni al 41 bis. Non mi sono mai confrontato con nessuno, mai. Per 20 anni non sono cambiato di una virgola. Non si può cambiare se ci si confronta solo con le persone che hanno lo stesso pensiero. Solo quando ho avuto la possibilità di aprirmi al confronto ho potuto immaginare un cambiamento. Il percorso di reinserimento non è facile. Molte volte lo spiego così. Io all'inizio, devo dire la verità, all'inizio mi immaginavo come un atleta in una pista. Per colpa del mio fine pena, io il traguardo non ce l'ho. E allora mi dicevo, ma io che scendo a fare in pista? Tanto non corro. Corro, ma il traguardo non ce l'ho. Meglio non scendere. Poi, con la spinta delle mie figlie, degli operatori, del magistrato di sorveglianza che mi diceva, Romeo, non deve perdere la speranza, si dia da fare. Con la spinta anche della direzione e degli educatori e tutti gli operatori del volontariato, sono sceso su questa pista. Io sono come un maratoneta che arriva vicino al traguardo e cade. Sono fortunato. Yoki mi dice, alzati, alzati che ce la fai, alzati che sono 2 passi e sei arrivato. E allora ti rialzi. Ma molti dei miei compagni detenuti non trovano le persone giuste dentro al carcere. Oppure c'è chi non ce l'ha una famiglia, perché dopo tanti anni di carcere si perde anche quella. Io ho mia figlia che mi segue sempre e mi incita a rialzarmi. E tante, tra le persone della società civile che frequentano la nostra redazione, hanno su di me questo effetto. Certamente le delusioni ci sono, una fra tutte è quella di non ricevere risposta. La risposta negativa te la puoi giustificare, la giustifichi e giustifichi anche chi te la dà, perché oggi, quando sei fuori dalla subcultura, giustifichi anche ti dà una risposta negativa, ma non ricevere risposta è molto deludente. Io ho fatto e sto facendo un percorso di reinserimento. Ci credo, ma basta che arrivi qualcuno che giudica questo percorso come sbagliato o capzioso, che si deve rifare e ricominciare da capo. Così facendo tutto perde di senso. La rieducazione non è né può essere un passatempo. Ho fatto quasi 30 giorni di carcere e non ci sono giorni facili in carcere. Se io mi guardo indietro e penso a cosa ho visto, a cosa ho vissuto qua dentro, a tutte le persone che ho visto uccidersi, tagliarsi, rovinarsi di psicofarmaci, drogarsi, impazzire, penso che forse tiro avanti perché non ho abbastanza coraggio per togliermi la vita. Ma sono pensieri momentanei, da cui mi guardo bene. Io so che dal mio provarci dipende anche la serenità dei miei familiari. Penso già si devono portare lo stigma di avere un familiare in carcere. Io non devo fare nessuna stupidaggine, non devo perdere il controllo perché il mio agire ricade su di loro. Tutto quello che faccio, anche oggi, ricade su di loro, sia in positivo, sia in negativo. I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Make me say it again out loud. Big star adoring, don't worry, baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time. Without drugs, without love. Total submission, I've seen a vision. Everyone's screaming, I've been daydreaming. Sorry I'm fishing, without permission. Tell her I'm missing, in a serpentine prison. Don't try to connect the dots anymore. Let them go, they're gonna do it on their own. Tell me that I'm not in this alone. And I'm so sorry, I don't know why I'm slow. I feel like an impersonation of you. Or am I doing another version of you doing me? Nobody's ever really thinking about us. Half as much as we want them to be. Grazie a Tommaso Romeo, questo è un racconto che Mauro Pescio ha raccolto nel carcere di Padova, che frequenta per motivi di lavoro, insomma, soprattutto per motivi di lavoro legati a Linee d'Ombra. L'incontro con queste persone crea in Mauro ogni volta una forma di shock umano. Ogni volta che torna mi racconta quello che vede, quello che sente, queste persone che incontrano, che hanno chiaramente un modo di raccontare le cose che ha a che fare con la filosofia. Sono persone che hanno moltissimo tempo per pensare ai propri errori, per dolersi dei propri errori, e invece per qualcuno, come nel caso di Tommaso Romeo, per provare a rimediare a quegli errori e provare addirittura a guardare al futuro, anche se il suo si chiama Fine Pena Mai. Grazie a lui per il racconto, grazie a Mauro perché li raccoglie. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Linee d'ombra. Vi stiamo chiedendo i diari della ripartenza, linee d'ombra, @radio24.it, quelli che arrivano esattamente come è accaduto per i diari della quarantena sono i più disparati. Quello di oggi, quello di Giulio, l'ho amato molto perché ha un entusiasmo che è travolgente, ci racconta tutte le cose che aveva organizzato durante il lockdown per essere pronto quando sarebbe ripartito, ci racconta i dettagli, ci racconta del motore della sua 500 Abarth che si accende al primo colpo, ci racconta del suo servizio in chiesa e ci racconta di una pianta, di un platano che è lì che è come se aspettasse che il mondo passasse davanti a lui pronto per raccontarlo. Ecco, ci racconta un sacco di cose Giulio e questo è un bellissimo diario della ripartenza. Continuate a mandarceli. Linee d'ombra, @radio24.it. Trattengo il respiro e giro la chiave. E dopo 70 giorni la mia gnappetta, questo è il nome che do alla mia auto, parte al primo colpo. E io avevo organizzato tutto per la batteria scarica. Una settimana prima della fase 2 mi sono fatto mandare un mantenitore di carica e dopo aver smontato la scatola che pompa corrente l'ho lasciata attaccata ai cavi rosso e nero, speranzoso di poterla rianimare. Ho sempre lavorato nel periodo intenso del lockdown, nella macelleria dove da 20 anni lavoro. Come per tanti ci sono stati momenti duri, dove raggiungevo a piedi il luogo di lavoro in quel silenzio irreale. Spesso ho pianto per le vittime e gli operatori schierati in battaglia contro il Covid. Abito a Mantova, una bomboniera di città circondata da laghi, stupenda, la amo. Ho visto molti clienti in questo periodo, molto disciplinati e molto collaborativi. Ho preparato spese, disinfettato ogni angolo e offerto il mio contributo, grazie alla buona salute che mi è stata donata. Negli ultimi tempi mi ero fatto uno schema sulle cose da fare per tornare a vivere, quindi guardando YouTube, del quale sono drogato, ho inviato al salone dei miei vicini parrucchieri un taglio da uomo fighissimo di un salone di Helsinki, poi ho chiamato il gommista per il cambio gomme invernali estive, insomma tutto pronto, scadenza di pochi giorni. Accendo la mia 500 Abarth presa usata con dei sacrifici e dopo il primo giro di chiave lo scarico inizia la sua sinfonia, ho i brividi, vado dal gommista, cambio le gomme, faccio un timido giro di pochi chilometri vedendo posti lasciati senza foglie e ora verdi, rigogliosi. Due giorni dopo, con la campagliatura da Super Saiyan, la bravura di Rosa mi trasforma in un figo pazzesco, lasciando ai posteri il mio tappeto di capelli per terra. E poi la messa. Sabato scorso ho telefonato al Santuario Mariano, dove prestavo servizio come cantore e lettore della compagnia di Mantova. Fra Enrico mi dice che, a parte le regole di distanziamento e igiene, mi aspetta domenica. Nel pieno della pandemia ho presenziato ad assembramenti virtuali sulle varie piattaforme dove in 12 famiglie recitavano il rosario e pregavano. La vigna del Signore non è mai stata così curata, ma ora è tempo di ricominciare e la prima messa vera e propria è stato un respiro di eternità. Oggi ho fatto la prima passeggiata sul lungolago che era chiuso dalle autorità. Per accedervi devo solo attraversare la strada. A qualche centinaio di metri ho salutato la grande anima, un platano secolare con le radici esposte che protegge con il suo ombrello il cammino dei viandanti. Lo chiamo così perché mi piace pensare che l'albero, come diceva il filosofo bengalese Tagore, sia lo sforzo infinito della terra a parlare al cielo, in ascolto. Mi piace pensare a quante tempeste ha resistito e protetto uomini e uccelli, vedendo un'infinità di albe, di tramonti, nebbie, ascoltando le promesse degli innamorati sotto le sue fronde. Ho sostato qualche minuto con la certezza di un futuro tutto da scrivere. La speranza di amare, portare frutto e rendere la mia vita un capolavoro, come diceva il grande Ezio Bosso. La musica, che io adoro come la vita, si può fare solo insieme. Questo virus ci ha insegnato tante cose, ma una è la più importante, ascoltare tutti. Grazie, Giulio. What it is, what it is, what it is.